2024 di Enrico Pagliarini. Oggi è il 16 marzo 2013, questa è la nuova puntata di 2024. Con me c'è Carmelo Lauricella che si occupa della parte tecnica. Ciao Carmelo, bentornato e bentornati a tutti i nostri ascoltatori. Se volete chiamarci in diretta, il nostro numero verde è 800240024. Avete altre modalità per contattarci e per parlare con noi, quindi gli sms, le telefonate, Facebook, Twitter, l'email e poi basta. La prima notizia che vi do questa settimana riguarda la nostra nuova app, la nostra nuova applicazione per Android di Radio 24. Alcuni diranno, oh finalmente, anche Radio 24 ha una bella applicazione per Android. Questa mattina l'ho scaricata, funziona tutto, potete ascoltare la diretta dove non esiste la copertura FM, quindi se non avete alternativa per l'FM e c'è internet potete utilizzare la nostra app. E ci sono i podcast, quindi potete aprire la sezione podcast, cliccare su 2024 e ascoltare le nostre ultime puntate. A proposito di Android, nella lista oramai infinita di terminali Android ne arriva uno nuovo, è un gran bel prodotto, è uno dei telefoni top di gamma, stiamo parlando di un terminale che costerà circa 700 euro, arriverà il 27 di aprile in Italia. E parliamo del nuovo Samsung Galaxy S4, l'ultima versione della linea con la quale l'azienda coreana punta a mantenere la leadership del mercato smartphone. Allora, giusto per avere alcuni riferimenti, lo scorso anno Samsung è salita a livello mondiale al 29% di quota di mercato contro il 22% di Apple. Dietro queste due aziende c'è un abisso perché Huawei, la cinese Huawei, è al 5%, Sony e ZTE hanno entrambe il 4% e tutti gli altri, che sono soprattutto produttori cinesi, hanno il 35%. Allora, Samsung ha scelto New York per lanciare questo terminale. Jeremy will be back, but first I want to welcome all of you here in Radio City and all of our friends in Times Square. Allora, avete sentito il presentatore di questa serata, ha detto siamo al Radio City Music Hall, in casa del concorrente principale, quindi Apple, che pensate però negli Stati Uniti iPhone ha una quota di mercato che è diversa rispetto al mondo. Negli Stati Uniti iPhone e quindi Apple ha il 45% contro il 26% di Samsung. Luca Salvioli del Sole 24 Ore, benvenuto, ciao Luca. Buongiorno. Ciao Enrico, ciao a tutti. Allora, tu sei appena tornato da New York, infatti avevi una scelta, o andare a letto oppure venire a lavorare. Si vede un po' dalla faccia che sono sì, atterrato praticamente qua davanti. Il bello della radio che non si vede. Senti, allora, a proposito di questo spettacolo, perché è stato un grande spettacolo, c'è stata un'attesa incredibile. Diciamo che è la prima volta che un evento che non riguarda Apple negli ultimi anni ha questa come dire, serie di anticipazioni sui blog, eccetera, e questa grande attesa. E esatto. Questo dice qualcosa. Esatto, questo è interessante. Allora, il Radio City Music, io l'ho sempre visto solo da fuori, non sono mai andato, è un teatro gigantesco. Io, grazie a Dio, sono riuscito a entrarci all'ultimo, nel senso che si è rimasti in coda lunghissimo. Ah, sì. Temevo di rimanere fuori, si è riuscito a entrare, c'è stato grandi problemi con il wifi, come sempre in questi casi. Nonostante sì, non va mai, esatto. Io dovessi fare la diretta sul sito del Sole 24 Ore, alla fine è partito. No, grandissimo, erano più di 1000 giornalisti, poi clienti, alla fine eravamo 3000 in questa stanza con un annuncio in pompa magna, diciamo, insomma sì. Non si sono fatti mancare nulla, molto festoso, molto teatrale, c'era musica, balli. Alcuni hanno tirato un po' le orecchie a Samsung e hanno detto spettacolo un po' troppo pacchiano. Un po' lo è stato, devo ammettere, e non chiarissimo nella presentazione degli elementi tecnici. Hanno puntato sull'esperienza, quindi far vedere cosa si può fare con queste nuove applicazioni, in linea un po' con quello che è il messaggio di questo telefono. Sì, esatto. Oh, a proposito dello spettacolo un po' pacchiano, non molto americano, cioè gli standard degli americani sono più elevati, e anche le parole che sono state pronunciate, di solito gli americani fanno delle gran belle presentazioni. Allora, vi faccio sentire la voce del numero uno di Samsung, J.K. Shin, a proposito di uno si presenta al mondo, perché poi c'era lo streaming su YouTube, esatto, a livello mondiale. Sì, tutto il mondo. Giusto per capire, insomma, quali passi devono ancora fare i coreani per fare delle belle presentazioni. Sentite come pronuncia l'inglese Shin. In the past several weeks, we have heard an amazing combination of rumor and speculation about what I'm going to unveil tonight. Before you hear about the product itself, I would like to emphasize one thing. Allora, vabbè, c'è chi dice anche, beh, essendo un coreano ha fatto un grande sforzo. Allora, Luca, prima di parlare di alcune caratteristiche, abbiamo sentito Carolina Milanesi, un parere autorevole, vicepresidente e analista di Gartner, su questo che alcuni avevano annunciato come una rivoluzione, e forse invece si tratta di un'evoluzione. Oh, attenzione, stiamo parlando di un telefono top di gamma con tutte le caratteristiche che oggi un telefono deve avere, però forse non è una rivoluzione, ma una evoluzione. Sicuramente sono d'accordo che è un'evoluzione, non una rivoluzione. Abbiamo visto dal punto di vista fisico del prodotto uno schermo più grande, una batteria più lunga, una fotocamera con più megapixel, però niente di rivoluzionario. Poi abbiamo visto molte features che sono invece fatte più a livello di software, che secondo Samsung dovrebbero arricchire e semplificare la nostra vita. A me sembra un buono slogan, ma poi provando le features non mi sono tanto ritrovata una vita più semplice e ricca. Sì, molte delle novità sembrano una dimostrazione di capacità tecnologica fine a se stessa, messa lì un po' per stupire, soprattutto per stupire. Sì, questo secondo me è la cosa importante. Diciamo due aspetti, no? di tutte le cose che hanno messo sulla lista, sembrava una lista che più ne hai più ne metti, no? Di features. Una è che molte delle cose che hanno fatto vedere non sono originali loro, nel senso che, per esempio, se guardiamo alla fotografia dentro la fotografia, quindi l'abilità mia di fare una fotografia di due amici e mettere il mio viso entro questo video che poi posso prendere come anche fotostatica, ce l'ha LG. Il fatto di poter usare il telefono con i guanti, ce l'ha già la Nokia. Quindi sembra che sono andati a vedere quello che fanno i concorrenti, deciso quali sono le features che a loro piacciono di più e poi messe tutte in un pacchetto solo. Quindi questa è una parte. E la seconda parte, come dicevi tu, del fatto che queste feature magari sono «Ah, wow, che bello, la uso una volta o due e poi alla fine non mi cambia nulla». Questo è un nuovo smartphone che dal punto di vista estetico cambia molto poco, perché è molto simile al Galaxy S3, e sicuramente un accento molto forte è stata messa sull'ecosistema, e sembra quasi, però chiedo conferma a te, che Samsung si voglia allontanare gradualmente da Android. È così e soprattutto come? Sì, ieri veramente la parola Android non c'è mai stata, né Android né che versione del sistema operativo ci sia sul telefono. Non solo questo, ma alcune delle features che hanno sono delle repliche delle features che ha Google come native sul sistema operativo, no? Quindi che trovi già negli altri telefoni, e loro escono con questa versione con la, se possono ci mettono una S davanti, quindi iOS Bean, iOS Voice, S Pen e via dicendo, un pochino come Apple ha i davanti ai propri prodotti, no? E non si è ancora ben capito se ci possono essere due teorie, no? Una è che si stanno allontanando perché comunque vogliono creare il loro ecosistema più forte intorno a Android, e che è un modo di differenziarsi dai concorrenti. L'altra è che stanno preparando le basi per poi prendere questo ecosistema e la loro brand e spostarla su Tizen, che è, come sai, il sistema operativo che loro palleggiano, che viene dalla fusione di Limo Foundation e di Migo, con un pochino di Bada anche, giusto per finire la crescita di questo sistema operativo dalle ceneri di qualcos'altro, sembra. E questa era la voce di Carolina Milanesi, e sicuramente Samsung farà, oltre che per i mercati emergenti, anche altri telefoni su Tizen, questo sistema operativo. Allora, Luca Salvioli del Sole 24 Ore, tu hai provato alcune di queste feature, si chiamano così, insomma, queste novità, soprattutto dal punto di vista software, giusto? Sì, sì, infatti questo, diciamo che emerge come trend, il fatto che per distinguersi in un mercato che ha raggiunto uno standard in termini di hardware, perché ormai i telefoni sono molto prestanti tutti, la ricerca è proprio di creare questo effetto wow nei consumatori, come diceva Carolina Milanesi. loro lo hanno creato, nel senso che ci sono cose divertenti, curiose, sul fatto che cambino la vita, insomma, anch'io ho qualche perplessità. Si era parlato molto già nelle anticipazioni della possibilità di comandare il dispositivo col movimento degli occhi, quindi c'è un ragionamento sull'interfaccia, un po' come era stato fatto da Siri di Apple con i comandi vocali, Google Voice, con un servizio molto simile. L'ho provato, funziona, diciamo le applicazioni sono due, la prima è che se stai guardando un video per esempio e ti chiama qualcuno e ti sposti con gli occhi dallo schermo, questo si interrompe, quindi quando torni a vederlo riparte e funziona. La seconda applicazione è che appunto uno sta leggendo una pagina web dal browser, la telecamera frontale da 2 mega inquadra la posizione degli occhi e permette di scorrere la pagina seguendo però il movimento del polso. Quindi non è che sono gli occhi a muovere la pagina web, ma il polso. E anche questa è una cosa... Funziona. Funziona, diciamo così. Si possono sfogliare, che ne so, una galleria di foto facendo solo un gesto con la mano. Esatto, l'altra è questa, si chiama AirView, è senza toccare lo schermo, passi da una foto all'altra, oppure avvicinando il dito su una cartella hai l'anteprima, oppure su una mail hai il testo che emerge. Anche questa funziona, anche questa c'è da capire quanto può essere utile, ma crea un po' di effetto wow che magari può attirare qualche consumatore, tenendo conto che Samsung, e qua una differenza anche da altri concorrenti, è riuscito a creare un brand che ha quote di mercato, che è affidabile. Sì. Poi tra l'altro su questo anche Carolina Milanesi ci confermava che sicuramente questo telefono venderà molto perché Samsung sta pianificando una campagna marketing in tutto il mondo con più di 100, io ho letto addirittura 150 milioni di dollari, quindi una capacità di fuoco pazzesca. Sono già partiti prima nel creare l'attesa, esatto, l'attesa l'hanno creata, esatto, in maniera molto abile. Esatto, da questo punto di vista devo dire che hanno fatto una crescita incredibile, sono diventati più bravi rispetto a quello che facevano prima. Luca, poi c'è un aspetto che mi pare interessante, soprattutto per il mondo delle aziende. Samsung ha lanciato una serie di applicazioni, di soluzioni, di servizi per dividere quello che uno fa nella vita di tutti i giorni e quello che uno fa in azienda, per cercare di vendere e fornire prodotti più sicuri per il mondo delle aziende. Un po' come l'idea è quella che ha presentato anche BlackBerry, con due mondi divisi, certo, sullo stesso terminale. E questo per il mondo Android è sicuramente importante, perché il mondo Android sappiamo che è quello più bersagliato. Sì, sì, tutte le indagini sulla sicurezza hanno sempre fotografato Android come la piattaforma più vulnerabile e quindi che piace di meno ai dipartimenti IT delle aziende. Sappiamo che i dipendenti invece vogliono utilizzare il proprio dispositivo, lo smartphone in azienda, non soltanto un telefono che sia solo business, quindi un'offerta di maggiore sicurezza e una divisione dei due ambienti può essere un vantaggio competitivo. È una sfida a BlackBerry, che è in difficoltà, e anche a Apple, che comunque iOS è considerato considerato più sicuro dei dipartimenti, sì, IT rispetto a Android. Bene, Luca, grazie per essere stato con noi. Grazie a te. Tu hai scritto molte cose per il Sole 24 Ore, anche il sole24ore.com, quindi i nostri ascoltatori possono poi leggere. Assolutamente. I tuoi pezzi. Buon weekend e buon riposo. Grazie Enrico, a te. Bene, adesso abbiamo alcune notizie della settimana che vi riassumiamo così. Digital News. Allora, c'è un nuovo capitolo della diffusione della fibra ottica in Italia. Vodafone ha lanciato in alcune aree di Milano, per ora stiamo parlando di circa 30.000 unità abitative, la propria offerta commerciale Fiber to the Home, un collegamento ad internet in fibra ottica che arriva direttamente nell'appartamento. Per 45 euro al mese viene fornito un collegamento a 100 megabits in download, 20 megabit in upload, oltre a telefonate ai fissi comprese. Allora, c'è una mega polemica in rete contro la decisione di Google di spegnere dal 1 luglio Google Reader, il più popolare tra gli aggregatori di feed RSS, cioè un sistema col quale si possono seguire, aggregandole in un'unica schermata, le notizie che arrivano da varie fonti. Secondo Google non c'è un sufficiente numero di utilizzatori per giustificare il mantenimento in vita di Reader. Ovviamente è anche una mossa per tentare di spostare utenti su Google Plus, il social network di Google. Dicevamo che c'è stata molta polemica, tanto che in poche ore, pensate, circa 100.000 persone hanno firmato una petizione su change.org. Ultima notizia: dopo che sia Google che Apple hanno fatto sapere di essere interessate al lancio di un servizio di musica in stream su abbonamento sul modello di Spotify o Deezer o Radio, che è appena arrivato in Italia. Anche Twitter sarebbe in procinto di lanciare una nuova applicazione denominata Twitter Music, che permetterà di scoprire nuova musica in funzione degli artisti che seguiamo sul social network. Twitter Music arriverà inizialmente con un'applicazione esclusiva per iOS e dovrebbe uscire entro fine marzo. Adesso ci fermiamo per un minuto e riprendiamo tra poco. 2024. Riprendiamo tra poco. Nella seconda parte del 2024 parleremo di backup, dell'importanza del backup, vi parleremo anche di alcune soluzioni, ad esempio di quanto costa un NAS, a cosa serve un NAS, cioè una unità esterna per fare il backup. Parleremo anche di sicurezza dei nostri dati in un'altra veste, una cosa un po' forse poco nota, di cancellazione sicura dei dati, anche di recupero dei dati. Adesso invece parliamo di alcuni trend tecnologici, torniamo negli Stati Uniti. Forse alcuni ricorderanno che ho parlato recentemente di stampa 3D, uno dei grandi mega trend di quest'anno, di un dibattito anche che si è acceso negli Stati Uniti dopo che è stato annunciato il progetto di Defense Distributed, cioè difesa distribuita. Allora, lo scopo è creare progetti open source e quindi file disponibili gratuitamente per tutti, per poi stampare con una stampante 3D pezzi di, attenzione attenzione, un'arma da mettere poi insieme. Quindi io, se uno ha una stampante 3D, non è ancora molto diffusa ma si stanno diffondendo, uno scarica il file, si stampa pezzetto dopo pezzetto, li mette tutti assieme e fa un'arma. Non è una cosa impossibile, lo stanno facendo. Allora, questa settimana Cody Wilson, che è il creatore di Defense Distributed, ha annunciato l'intenzione di lanciare anche un motore di ricerca per trovare questi file. Wilson ne ha parlato a South by Southwest, una delle più importanti conferenze sul mondo digitale, che si chiude domani ad Austin, in Texas, da dove, tra l'altro, è appena tornato Pepe Moder, che è responsabile della divisione digital di Pirelli, e lo abbiamo invitato anche perché Pirelli ha lanciato da poche ore la propria app per seguire la Formula 1, quindi ci racconta due cose in un colpo solo. Pepe, benvenuto a 2024. Grazie, grazie a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Due cose sull'app e poi parliamo anche di alcuni trend che tu hai visto a SXSW. Sì. Che cosa fa questa app? È un'applicazione che permette alle persone di poter condividere l'esperienza del Gran Premio stando seduti sul proprio divano, ma su divani diversi. Quindi è un'applicazione che raccoglie contenuti, che raccoglie fotografie, ma che permette di chattare con gli amici. E quindi è come se virtualmente stessimo vedendo insieme il Gran Premio che abbiamo in televisione. Che è uno degli esempi di second screen di social TV, tutte e due le cose o una delle due? Ma in realtà è tutte e due, perché second screen intanto in quanto abbiamo dei contenuti che aumentano l'informazione rispetto a quello che stai vedendo in televisione mentre sta girando il Gran Premio. Puoi leggerti l'articolo, sia un articolo di costume ma anche l'articolo legato più tecnico, piuttosto che fotografie fatte in diretta, perché le peschiamo da Instagram, fatte in diretta dalle persone che sono lì sul circuito, o i tweet che vengono fatti dalle scuderie, o anche i tweet che tu vuoi aggiungere, i feed che tu vuoi aggiungere, e in più puoi ovviamente parlarne con i tuoi amici. Ma il fatto che noi abbiamo comunque delle persone sul circuito e il fatto di poter dialogare con queste persone ci permette ovviamente di avere uno scambio biunivoco, per cui in realtà è una TV social, anche se in realtà non abbiamo un diretto collegamento con la Rai o con Sky. Certo, è una social TV indipendente, potremmo dire così. Senti, ti faccio una domanda cattiva da utente di Android. Io sono utente un po' di tutto, quindi di iOS, di Windows Phone, di Android. Questa è un'app che lanciate solo per iPad, c'è un motivo? C'è un motivo? Enrico, sì, il motivo è il tempo. Abbiamo dovuto correre come dei matti per riuscire a farlo su iPad, e non facevamo in tempo per farlo anche su Android. E a piano, si tratta veramente solamente di una questione di tempi. Come tu sai, la prima release è una release beta, accettiamo e a questo punto aspettiamo i feedback degli utenti e delle persone, la chiudiamo e poi partiamo subito con il deploy per la versione, sì, Android. Ho fatto questa domanda perché comunque è interessante, perché mi confermi che ancora oggi quando si lanciano nuovi prodotti li si lanciano subito prima per iOS. perché gli utenti di iOS sono più reattivi e tendono a essere, come dire, più critici, ma critici costruttivi. Senti, tu sei appena tornato da SXSW, South by Southwest, che è una manifestazione molto particolare, dove più che si conoscono i trend, che magari li conosciamo anche dalla rete, si parla e si discute e si capisce che cosa poi questi trend portano sul mercato. Dimmi due cose di questa manifestazione che c'è stata, cioè che si conclude proprio in questo weekend ad Austin, e tu sei appena tornato. È un po' la Woodstock del digitale, della musica e del film. Quest'anno durava dall'8 al 17, per quanto riguardava i contenuti digital era dall'8 al 12, 5.000 seminari in 10 giorni, sparsi per tutta la città, 48.000 persone attese per l'evento, contenuti ovviamente sul digitale che hanno coperto tantissimi argomenti e che, come giustamente hai detto, non raccontano i trend del futuro, quello che sarà, ma tendono a concretizzare quello che in realtà erano i trend che si erano profetizzati negli anni precedenti, tant'è che si vedono tantissime start-up che mettono in pratica quelli che sono i trend di cui abbiamo parlato. Sì, sicuramente per quanto riguarda social TV e second screen mi confermi che questo è un trend che ormai si sta concretizzando, e quindi vedremo nei prossimi mesi un sacco di applicazioni. Te lo confermo, tant'è che NBC, il network USA Network, addirittura ha fatto uno switch, secondo me fondamentale, proprio paradigmatico, ha abbandonato o quasi abbandonato le metriche di audience per giudicare l'andamento del lancio di un programma, e utilizza adesso degli strumenti di misurazione dei tweet. Incredibile, interessante. Senti, altri trend interessanti che tu hai visto e soprattutto di cui poi hai visto anche... Ho visto la concretizzazione esatto. Di quello che abbiamo detto, per esempio la gamification, cioè il gamifying our lives, rendere i nostri comportamenti una componente di gioco, e quindi rendere ludica la partecipazione all'esperienza tra le persone e i brand o i prodotti. Concludiamo con altri trend interessanti da tenere d'occhio. Enrico, ti faccio una lista velocissima. Mobilization, rendere mobile e fruibili i contenuti su tutti i device, in tutti i luoghi dove le persone ne hanno bisogno. Lo storytelling delle attività delle persone, la geolocalizzazione, avere a disposizione contenuti e servizi quando le persone hanno bisogno e non quando i brand o le aziende vorrebbero che le persone li utilizzassero. La crescita importantissima dell'e-commerce fatto attraverso gli strumenti mobile, l'Internet of Things, di cui se ne è parlato per anni, ma adesso incominciamo veramente a vedere le cose più importanti. Pirelli con CyberTire ne è un esempio, e poi il social journalism. Ho avuto la fortuna di poter ascoltare un giornalista norvegese del principale quotidiano norvegese, il quale ha detto, di fronte a un paio di colleghi americani, ha detto: voi state sbagliando, perché voi confezionate, chiudete la notizia e poi la date alle persone affinché la commentino. Il social journalism non è questo. Il social journalism è creare un semilavorato verificato, ovviamente, della notizia, e finire di costruire la notizia insieme alle persone, affinché le persone possano apportare valore e portare contenuti alla notizia. Questo, secondo me, è un elemento molto importante nei confronti del contenuto, in termini di crescita dell'importanza del social media. Esatto, sicuramente questo è interessante e importante per i giornalisti, ma anche sempre più anche per le aziende, che devono comunicare, e grazie a questi strumenti possono comunicare meglio anche le piccole aziende, non solo le grandi. Grazie a Beppe Moder, a presto, buon lavoro. Grazie Enrico, buona giornata. Questo è 2024, riprenderemo tra poco nella seconda parte. Dopo le notizie di GR24 ci faremo alcune domande. La prima ve la pongo subito: quanti di voi fanno un buon backup, cioè quanti di voi salvano con regolarità i propri dati che vengono prodotti sul computer, ma anche su Carmelo Lauricella dice: io sono uno di quelli che fa il backup serio, fatto bene. Ma quanti quando decidono di vendere o disfarsi del proprio computer o anche di un tablet o di uno smartphone pensano a dove andranno a finire quei dati e quindi magari pensano a cancellare quei dati, ma sappiamo poi cancellare seriamente i nostri dati. Allora ne parliamo nella seconda parte. Vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci, per parlare con noi e per le vostre domande: 800 24 00 24. Ci sarà Rosa ad aspettare le vostre domande, anzi adesso durante la pausa vado a fare quattro chiacchiere con Rosa per sapere anche lei se ha una policy di backup. Vi ricordo anche gli SMS 349-238-6666, potete comunicare con noi anche tramite la nostra pagina Facebook e anche la nostra pagina, anzi il nostro account Twitter, @radio24_r24 oppure @Paglierini. Ci risentiamo tra pochi minuti. 2024. Riprendiamo, sono le 16:07, questo è 2024, vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta: 800 24 00 24. Potete utilizzare anche Twitter, Facebook o anche gli SMS, ma come sempre succede daremo la precedenza alle telefonate, diciamo alle domande che arriveranno via telefono, se sono intelligenti, ben fatte, curiose, come dovrebbe essere fatta una buona domanda. Dunque vi presento i nostri ospiti della seconda parte. In questa seconda parte il focus è sui nostri dati. Noi tutti i giorni produciamo, anche senza accorgercene, una quantità incredibile di dati che vengono salvati sul nostro smartphone, sul tablet, sui computer. E allora dobbiamo preoccuparci di tenere d'occhio questi dati, salvarli nel modo più opportuno, cercare anche che non finiscano in mani sbagliate. Simone Zanardi, bentornato a 2024, ciao. Ciao Enrico, buongiorno agli ascoltatori. Simone Zanardi lavora al laboratorio di PC professionale, si occupa molto di, potremmo dire, networking. Sì, dico bene? Esatto. Bene, io quando ho qualche problema chiamo Simone Zanardi, è sempre una sicurezza. Paolo Salini è responsabile per l'Italia di Crawl on Track, benvenuto a 2024, buongiorno. Grazie, buongiorno Enrico. Vorrei partire proprio da Salin perché mi ha incuriosito una chiacchierata che abbiamo fatto questa settimana sulle cose che fanno Crawl on Track. Voi forse siete più conosciuti per il recupero dei dati, cioè se mi, non dico mi brucia la casa perché brucia l'azienda, perdo i dati perché magari i miei hard disk sono finiti in mezzo all'incendio, li porto da voi e voi estraete i dati. Noi facciamo quanto è possibile per poter recuperare i dati. Dice, non siamo sicuri al 100%, però ci avviciniamo. No, non possiamo dare una garanzia, diciamo che abbiamo degli ottimi standard qualitativi e riusciamo a gestire in modo positivo oltre il 90% dei casi, però ahimè non siamo andati in grado di dare una un'altra garanzia. Cosa che voi fate, mi piace molto ricordarla perché non so quanti dei nostri ascoltatori sanno che A è possibile farlo, B è addirittura obbligatorio farlo, cancellazione sicura dei dati, che cosa intendete? Cioè che cosa vuol dire cancellare in modo sicuro i dati? Beh, cancellare in modo sicuro significa adottare una serie di tecniche e di meccanismi che non rendano più recuperabili in alcun modo le informazioni. E diciamo, più che intenderlo noi, lo intende proprio poi il garante per la privacy, perché questa è una normativa ormai entrata in vigore nel 2008, a ottobre del 2008, quindi ormai sono quasi 4 anni e mezzo, però ancora, non voglio dire disattesa, ma quantomeno poco conosciuta. Poco conosciuta. Ma chi è che è obbligato a cancellare in modo sicuro i dati, soprattutto quando, in quale momento? Bene, sedetevi sulla sedia, state bene tranquilli, ma siamo tutti quanti obbligati a cancellare in modo sicuro i dati. Tutti quanti, intendo dire, dalle aziende alle pubbliche amministrazioni, ma anche alle persone fisiche, quindi a noi comuni cittadini. Tutti. Siamo obbligati a farlo quando abbiamo dei dati sensibili. Dati sensibili, attenzione, anche qui non dobbiamo andare a inventarci noi una classificazione di che cos'è un dato sensibile, anche qui il garante ci va a definire quelli che sono i dati sensibili. Tipicamente sono i dati e sono le informazioni che sono idonee a rivelare informazioni in merito alla tendenza sessuale, allo stato di salute. Comunque diciamo che con tutti i dati che ormai sono digitalizzati, buona parte è quasi sicuro che siano sensibili. Mi dica quando io devo, perché diciamo nella vita di tutti i giorni faccio quello che mi pare. Quando è che devo cancellare questi dati in modo sicuro? Devo cancellarli quando decido di cedere, quindi di regalare o di vendere il mio smartphone, il mio computer, quando invece decido di smaltirlo, è arrivato a fine ciclo di vita, lo butto via, o quando decido di reimpiegarlo, quindi di assegnarlo tipicamente in un'azienda ad un'altra risorsa. Quando io sul computer faccio delete o come cancella, elimina. Quella non è una cancellazione sicura. Assolutamente no, quella non è neanche una cancellazione. Diciamo che quello è libera dello spazio, teoricamente libera dello spazio che può essere poi occupato, però non si sa da quando, da chi, sì, e non c'è nessuna garanzia. Questo, diciamo, i più esperti magari lo sanno, però quando noi cancelliamo un file, in realtà non lo cancelliamo, non lo vediamo più, però quel file da qualche parte rimane. È assolutamente lì. Facciamo un'analogia con un libro, è come se noi avessimo un libro con l'indice. Quando io vado a cancellare un file, semplicemente tiro una riga sulla voce dell'indice che corrispondeva a quel paragrafo, a quel capitolo, ma se mi metto a sfogliare il libro, l'informazione la trovo ancora. Sì. Allora, tra poco vi spieghiamo come si può fare, sia per un utente finale, diciamo, come me, come noi, nella nostra vita di tutti i giorni, sia per un'azienda, come si fa una cancellazione sicura, cosa che io stesso ho imparato questa settimana, è obbligatoria per tutti nelle condizioni e nei momenti che Salin ci ha ricordato. Simone Zanardi, noi però oggi vogliamo porre l'accento e l'attenzione sul backup, cioè sul salvataggio dei nostri dati, perché prima di arrivare al momento in cui vendiamo un computer, quindi dobbiamo cancellare i dati, o prima di arrivare al momento in cui ci si brucia il computer oppure finisce sott'acqua e quindi dobbiamo recuperare questi dati, è cosa buona fare un buon salvataggio. Certo. Allora, alla domanda perché, come dire, la risposta è semplicissima, forse scontata, però diciamolo. Sì, diciamo che è scontata fino a un certo punto. Diciamo che il backup, come per ormai tutti sappiamo, è una copia di sicurezza dei nostri dati. Alla domanda perché fare il backup, perché può succedere che questi dati vengano danneggiati o persi. Quello che non tutti considerano sempre è i motivi per cui vengono persi i dati. Per questioni di guasto hardware, ad esempio, per questioni di un malfunzionamento software, ad esempio, ma anche perché ci potrebbero essere degli attacchi informatici che ci fanno perdere dei dati e soprattutto, cosa che molti tendono a non considerare, perché magari per un nostro errore, quindi un errore proprio dell'utente, i dati vengono cancellati inavvertitamente. Ora, se tutti sappiamo che è cosa buona e giusta fare un backup, la domanda successiva potrebbe essere: perché così poca gente statisticamente fa backup? Perché statisticamente pochissima gente fa backup con una certa costanza. Beh, perché il backup, nonostante le procedure si siano notevolmente semplificate negli ultimi anni, il backup richiede un minimo di impostazione degli strumenti di backup, e poi vedremo quali sono. E poi comunque, per quanto questi strumenti consentano di automatizzare le fasi di backup, richiede una certa costanza, cioè bisogna comunque essere costanti nell'applicare le funzioni di backup. Quindi sì, non tutti poi lo mantengono. Sì. Questo infatti è importante, perché visto che stiamo parlando di fatto di sicurezza, quando parliamo di sicurezza dobbiamo metterci in testa che dobbiamo sconfiggere la nostra pigrizia, e purtroppo un po' tutti a vari livelli siamo pigri, bisogna essere ordinati, rigorosi, severi, certo. Bisogna fare il backup. Senti, dacci subito alcuni consigli su come fare un backup, cioè come partire, perché uno potrebbe dire: beh, io ho un bel hard disk esterno, trascino tutti i file che ho sul computer sull'hard disk esterno e belle che fate il backup. Sì, è un modo di vedere le cose, molto semplicistico. Diciamo che, dando un approccio molto molto di massima, partendo da un computer, innanzitutto i sistemi operativi moderni, quindi parliamo essenzialmente di Windows 8, Windows 7, 8, Mac OS X e anche Linux, poi hanno degli strumenti, delle funzioni del sistema operativo che consentono di pianificare dei backup. Quindi un esempio potrebbe essere utilizzare le funzioni che ci dà il sistema operativo del nostro computer. La seconda domanda è: ok, una volta che io accedo a queste funzioni, devo scegliere una destinazione dove salvare la copia di sicurezza dei miei file, e ribadisco, è una copia di sicurezza, non è uno spostare, cioè bisogna avere la copia da cui recuperare le informazioni. La destinazione oggi può essere molto molto diversa a seconda dei casi. Si va, come dicevi tu, dal classico disco esterno USB, si va ai dischi di rete, che poi vedremo cosa sono, dei NAS, quindi essenzialmente dei dischi che invece di essere collegati direttamente al computer o al terminale sono in rete. Si va ai servizi cloud, che vanno molto di moda oggi, che tra le altre cose permettono di effettuare dei backup o a volte quella che si chiama sincronizzazione automatica dei dati tra diversi terminali, poi vedremo un accenno a queste cose. Bene, ci fermiamo per un minuto. Le notizie che arrivano da strade e autostrade, vi ricordo il nostro numero verde 800240024. Potete anche inviare gli sms al 349-238-6666. Adesso vado a leggere quello che avete scritto su Twitter. 2024. Vi ricordo che da oggi è disponibile su Google Play, lo store di Android, la nostra nuova applicazione, l'applicazione di Radio 24, quindi se avete uno smartphone che utilizza come sistema operativo Android potete scaricare questa applicazione dove è possibile ascoltare la radio in diretta, dove non c'è l'FM, perché se c'è l'FM non vedo perché uno debba ascoltarla via internet. Potete, e questa forse è una delle funzioni che mi piacciono di più, riascoltare i nostri programmi, quindi i podcast, a partire naturalmente da quello di 2024. Allora Simone, tu ci hai dato alcune indicazioni sulle varie modalità per fare il backup. Entrando più nello specifico, tu che cosa consigli di fare? Un po' di tutto. Perfetto. Vale come risposta. No, diciamo che il cloud sicuramente è una tendenza, oltre a essere una moda, ha anche indubbiamente dei privilegi, nel senso che se io salvo delle copie di sicurezza dei miei dati online, sono al riparo da eventuali eventi, chiamiamoli così, catastrofici che interessano la mia abitazione o il mio ufficio. Quindi facciamo un esempio: se io salvo, come si faceva una volta, i backup su un disco esterno USB, o ancora parliamo di un supporto ottico come un DVD, se succede qualcosa, per cui l'incendio di cui facevi l'esempio prima te, mi si compromette sia il computer sia le mie periferiche e i supporti delle periferiche, rischio che questo backup non serva a nulla. Se io il backup l'ho fatto online, si spera che i signori di Google, Microsoft, Apple abbiano delle sale server un pochettino a prova di bomba e quindi i miei dati sono, diciamo, più al sicuro. D'altro canto il cloud, ricordiamolo, vuol dire che i file vanno online. Non sempre le connessioni internet che abbiamo noi sono poi estremamente performanti, soprattutto in upload, cioè caricamento verso internet. Una buona soluzione può essere per esempio quella di rivolgersi a un NAS, i dischi di rete di cui parlavamo prima. Noi salviamo i nostri dati di backup su queste macchine e quasi tutte ormai queste macchine possono poi eseguire indipendentemente da noi una sincronizzazione sul cloud. Quindi noi salviamo i dati in locale e poi loro, senza che noi ci accorgiamo, fanno una ulteriore copia, si sincronizzano col cloud in modo da conservare una copia anche sul cloud. Quindi in questo caso, se succede qualche cosa, noi possiamo recuperare i dati dal cloud. Esattamente. E al contempo però il trasferimento che facciamo noi dal computer è più rapido perché lo facciamo sulla rete locale. Salin, ad esempio nel mio caso, io devo ammettere che nonostante Simone Zanardi più volte mi abbia illustrato queste possibilità, io la maggior parte dei dati che io salvo ce li ho in locale in un bel NAS, che è bel NAS, bello, grosso, robusto, quindi sono abbastanza sicuro. Ma ecco, se succede qualcosa a questo strumento, o se succede qualcosa al mio smartphone o al mio tablet, come si fanno a recuperare questi dati? Partendo dalle soluzioni più semplici, cioè io a casa mia. Poi naturalmente le aziende hanno dati, si suppone, più preziosi, perché servono per far funzionare l'azienda, fino ad arrivare, immagino, anche a forze di polizia, esercito, aziende tecnologicamente molto avanzate, eccetera, eccetera. Beh, dal punto di vista tecnico, le modalità degli interventi di recupero dati sono piuttosto complesse. Uno dei plus di CrawlOntrack è quello di renderli semplici, quindi di renderli in modo nativo per i nostri clienti, in modo tale che non possano vivere quelle che sono le complessità per gestire il recupero dei dati. Per i casi più semplici, che possono essere la cancellazione, la formattazione o quello che prima Simone andava a definire come gli errori che un utente può fare sul proprio sistema, ma mettiamo a disposizione un software. Easy Recovery è abbastanza noto, anzi probabilmente uno dei software di recupero dati più noti in assoluto, e permette al cliente di andare a gestire in autonomia l'attività del recupero dei dati, e per di più offre anche un altro vantaggio, che è quello di avere un costo assolutamente limitato. Parliamo se io formatto, vabbè, no, dica il prezzo perché questo è importante, parliamo di 60 euro, quindi insomma sì, assolutamente abbordabile. Se io formatto il disco, si possono recuperare i dati? Dipende. Se avviene una formattazione di basso livello, ossia una sovrascrittura completa di tutto quello che è il contenuto, allora possiamo dire che i dati non ci sono più. E infatti questo è anche poi un metodo che viene riconosciuto valido per la cancellazione sicura dei dati. Se invece io faccio una formattazione veloce, che è semplicemente andare a spostare la dimensione di C o di D, tipicamente quando vado a fare un'operazione sul mio laptop o sul mio desktop, in questo caso avviene un po' quello che ci siamo detti prima per la cancellazione dal cestino. Le informazioni sono sempre lì e quindi possono essere facilmente recuperate. Mi sono distratto perché sto guardando le telefonate che stanno arrivando. Salin, quanto costano interventi di questo genere? Ci può fare un esempio? Beh, come dicevo prima, passiamo dalle poche decine di euro per la soluzione tramite il software e arriviamo a interventi che devono essere necessariamente valutati caso per caso, perché chiaramente possono andare a prevedere interventi da sistemi RAID, da macchine virtuali, quindi da strutture piuttosto complesse. Senta, però si recuperano anche i dati dei smartphone e dei tablet che non hanno un hard disk tradizionale all'interno? No, non hanno un hard disk tradizionale, ma hanno delle memorie di natura flash e possono anche essere in questi casi recuperati. Quindi anche le chiavette USB? Assolutamente sì. Simone, per diciamo tornare ai nostri NAS, visto che Salin ci ha parlato di prezzi, allora mettiamo sul tavolo prezzi. Quanto costa un NAS? Molto variabile. Robusto? Sì, molto variabile. Diciamo per l'utilizzo domestico, adesso senza entrare troppo nel dettaglio poi delle specifiche, possiamo approssimare un 150-200 euro senza dischi, perché i NAS poi possono essere acquistati, sono, diciamo, i NAS, per farla breve, sono dei piccoli computer che fanno dei server, nascono per essere ottimizzati per fare file server, cioè server dove mettiamo i file. Al loro interno devono avere degli hard disk, possono essere acquistati con già dentro gli hard disk o poi vuoti e noi inseriamo gli hard disk. Senza hard disk, un buon NAS, chiamiamolo prosumer, cioè per un utente un pochettino che vuole un po' di robustezza, diciamo che può costare dai 150 ai 200 euro. Poi i dischi vengono presi a parte. Ci tengo a dirlo perché è importante, il NAS, oggi probabilmente non ne parleremo a fondo, ma ormai non fa più solo file server e backup, fa anche tante tante altre cose. Ne parliamo un'altra volta, certo. però visto che io cerco di semplificare sempre di più, sì, rispetto a quello che fanno i tecnici, possiamo dire che un NAS è come fosse... può essere visto come un hard disk esterno. Un hard disk esterno che invece di essere collegato via USB, tanto per fare esempio, sì, dell'interfaccia più classica, è collegato alla rete. Perfetto. E tu comunque consigli, per fare un buon salvataggio dei dati, di avere uno strumento di questo genere, piuttosto che magari un hard disk semplice da attaccare con USB. Sì, prima di tutto perché è sempre più raro che ci sia un solo dispositivo in casa, un solo terminale, un solo computer in casa. Sì. Quindi il NAS può conservare il backup senza che ci sia un collegamento diretto fisico di più computer, del tablet, dello smartphone. Ovviamente può essere raggiunto tramite cavi di rete, quindi tramite la rete cablata, anche via Wi-Fi, se la rete è Wi-Fi. Ha il vantaggio che rispetto ai dischi esterni tradizionali può montare più di un disco al suo interno, più di un hard disk al suo interno, e ci sono le cosiddette architetture RAID che permettono di conservare i dati anche se uno dei dischi si rompe, perché per esempio io ho due dischi, i dati vengono replicati su tutte e due, quindi se uno dei due dischi si rompe i miei dati sono conservati sul secondo. Sai che pensavo di spendere un po' meno per comprare un nuovo NAS? Difficile andare adesso, magari sono andato un pochettino, come hai detto te, sono andato già su quelli un po' robusti, però insomma, obiettivamente meno di 100 euro dischi esclusi è un pochettino difficile. Quindi compresi i dischi secondo me, partendo dal presupposto che io consiglio di prendere un NAS con almeno due dischi, sì, per avere questa ridondanza, sì. Diciamo comunque 250 euro 300 euro, ecco, poi dipende anche dalla capacità dei dischi impiegati. Certo, per un'unità che è da un tera, due tera, un tera siamo sui 300, ecco, per fare un esempio. Io sono uno che ha pochi dati fondamentalmente, sì, e mi chiedo sempre, ma cosa se ne fa uno di 2 tera? Però sì, effettivamente dipende, multimedia è una risposta semplice. Senti, quasi tutti questi prodotti hanno già il software che, facendo un click e magari dicendo salvami questo, fa tutto lui e io non ci penso più. Io non ho né voglia né tempo di mettermi lì a selezionare, a fare. Quasi tutti questi prodotti sono forniti con un software da installare sul computer, tipicamente sia per sistemi Windows che Mac, che permette poi di automatizzare la procedura di backup. Quindi io faccio click qui, come dici tu, e vengono fatte le copie, o addirittura io programmo che tutti i giorni, in fascia serale, tutte le settimane, venga effettuata una copia in sicurezza, quindi utilizzano dei software che vengono installati o addirittura si interfacciano, come nel caso di Time Machine, che è una funzione che ha Mac, si interfacciano direttamente con queste funzioni del sistema operativo. Sì. Salin, visto che lei vede l'altra faccia della medaglia, da quello che capisce lei, sono molte le persone, ma soprattutto le aziende, perché immagino che lavoriate con le aziende che hanno delle serie policy di backup, parlo anche di piccoli uffici, perché ormai i dati ce li hanno tutti, cioè anche l'idraulico e il falegname. Crorontrack è stata dichiarata sulla via della chiusura dal 1989, noi siamo nati nel 1984. Ah, perché? Perché era arrivato il backup. Però ci siamo ancora, nel senso ci siamo ancora e stiamo ancora crescendo, mi spiego meglio. Senza dubbio una buona politica di backup aiuta, protegge i dati e evita di doversi rivolgere a un servizio di recupero dati. Però è anche vero che c'è sempre una maggior diffusione. Quindi se tutti facessero il backup fatto bene, voi effettivamente chiudete. Se tutti facessero il backup fatto bene e facessero anche il restore, ossia andassero a verificare che il backup effettivamente poi funzioni. Ah, beh, qua non ci... Certo. Allora direi che senza dubbio diminuirebbe di molto quello che è l'attività che noi svolgiamo. Sì. È però evidente che c'è sempre una maggior diffusione dei dati e in alcuni casi diventa anche proprio poi difficile riuscire a fare il backup, sì, perché c'è sempre più il dato distribuito, il dato alla forza vendita, il dato sul mobile, quindi diciamo che ad oggi la potenzialità di andare a svolgere più backup senza dubbio c'è. Sì. Senti Simone, quelle cose che abbiamo detto valgono e come valgono per smartphone e tablet, perché probabilmente si può, però mi devi spiegare come fare a collegare uno smartphone al NAS di rete, fare il backup di quello che ho sullo smartphone sul NAS di rete. Allora, tutto quello che avviene per i computer a livello concettuale vale né più né meno che per gli smartphone e i tablet, soprattutto dal punto di vista della cultura del backup, no? Quindi dal punto di vista dell'utente. Smartphone e tablet nascono dopo, diciamo, la rivoluzione Apple, diciamo così, quelli moderni, e dopo Google e il paradigma di Google che è orientato al cloud, nascono come dispositivi molto più orientati al cloud. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, anche senza accorgercene, moltissimi, anche se non tutti, dei dati che noi conserviamo sullo smartphone e sul tablet sono in realtà già sul cloud. Faccio un esempio, non perché voglio parlare di Google, ma quando noi utilizziamo uno smartphone Android e utilizziamo la rubrica di Google, utilizziamo i documenti su Google Docs, quindi tutto l'ecosistema che ha Google, in realtà tutti questi dati sono già sul cloud. Una comodità di questi sistemi è che quando io rompo un telefonino, ne acquisto un altro, io praticamente automaticamente mi trovo tutto quello che avevo su quello vecchio su quello nuovo. Accendi il nuovo con le tue credenziali, esatto, e ti ritrovi, che anche è uno dei vantaggi del cloud. Certo, anche Apple l'ha fatto con iCloud, Windows Phone 8, l'ultimo sistema operativo Microsoft, nasce già con queste caratteristiche. Quindi tantissime cose sono già, chiamiamole così, sincronizzate col cloud. Il che non vuol dire che sono tutte le cose. Ora, come salvare, visto che facciamo l'esempio di Apple che è abbastanza chiusa, Apple non consente l'interazione soprattutto con strumenti di backup che vadano a guardare dentro il sistema operativo, il file system del computer. Beh, per esempio, tantissimi software di terze parti, non sto parlando di software di backup, ma parlo di software di produttività, interagiscono già col cloud. Cioè, non so, tutte le suite equivalenti di Office per tablet e smartphone, quando noi utilizziamo un file Word, un file Excel o comunque un foglio di calcolo, un foglio di testo, danno la possibilità di salvare i documenti sulle varie piattaforme cloud. Quindi di fatto hanno già questa sorta di backup. In ogni caso esistono anche software, soprattutto nel sistema Android che è più aperto, che permettono di fare manualmente il backup dei dati, scegliere cosa backuppare e fare delle copie di sicurezza sia online sul cloud sia sul computer. Bene, allora tra poco vorrei chiedere a Paolo Salin come, sempre a proposito di tablet e di smartphone, come in quel caso si fa una cancellazione sicura, perché forse, capita sempre più spesso di magari vendere un tablet usato, comprarne uno usato, e in quel caso, soprattutto se lo vendiamo e lo cediamo, è importante cancellare tutti i nostri dati per evitare che i nostri dati finiscano nelle mani sbagliate. Allora, naturalmente oggi vediamo solamente alcuni accenni di quello che si può fare e cerchiamo di ricordarvi un elemento importante della nostra policy digitale di tutti i giorni, cioè che il backup e il trattamento sicuro dei dati è importante. Giuseppe su Twitter ci scrive: il mio corso sulla sicurezza dati è durato 30 giorni per 7 ore al giorno. Eh sì, perché effettivamente no, oggi facciamo solamente alcuni accenni. Se Giuseppe riesce a farci dare tutte le ore del giorno, però buone ore del giorno durante la settimana per così tanti giorni, nel palinsesto di 2024 facciamo un bel corso di sicurezza. Allora riprendiamo tra poco, questo è 2024. 2024. Le 16:35 minuti, questo è 2024, oggi dedicata alla sicurezza dei dati, al backup, alla cancellazione sicura, al recupero dei dati. Oh, naturalmente noi, e anche Simone Zanardi prima, ha fatto riferimento alla sicurezza dei dati, non alla privacy, perché un conto è la sicurezza dei dati, un conto è la privacy. Tutt'altro capitolo, tutt'altra puntata che potremmo fare, abbiamo fatta in altri casi, in altre occasioni. Perché un conto è soprattutto nei confronti del cloud dire che un servizio offre una sicurezza, una certa sicurezza nella protezione dei nostri dati, un conto è poi il trattamento della privacy che segue altre linee, altre leggi. Poi c'è anche proprio un dibattito tra giurisdizioni diverse tra Europa e Stati Uniti, cose che abbiamo detto più volte. Allora, Salin, per quanto riguarda gli smartphone e i tablet, come faccio a cancellare in modo sicuro questi dati quando magari decido di vendere il mio tablet e voglio che tutti i dati che sono lì sopra scompaiano? Oh, questo è un discorso molto interessante che richiede un piccolo preambolo. Allora, partiamo da un dato di fatto. Come diceva lei giustamente prima, all'interno di questo tipo di dispositivi non si trova un hard disk, ma si trovano delle memorie flash, quindi diciamo delle sorte di memorie di chiavette USB, dei chip. Quando il garante, per la parte italiana, ha disciplinato come andare a fare la cancellazione sicura dei dati, quindi nel 2008, questo tipo di dispositivi era ancora poco comune. Quasi, diciamo, sì. Quindi diciamo c'è una piccola differenza fra quelli che sono gli aspetti normativi, in cui in questo momento dovrei rispondere che non esistono ancora degli standard ben definiti per lei, fare diciamo, la cancellazione sicura. Sta trattando il tema dal punto di vista scientifico, diciamo sì, così. Però possiamo poi invece andare a quello che è la vita di tutti i giorni e a quelli che sono i consigli per poter fare una cancellazione sicura. Gli strumenti sono assolutamente disponibili e sono sostanzialmente già disponibili sui nostri strumenti, quindi sul nostro smartphone o sul nostro tablet. A seconda di quella che è il sistema operativo e dello strumento stesso, si devono semplicemente seguire delle piccole procedure e eseguire la cancellazione dei dati. Cioè, quindi lei dice, tra le opzioni che ci sono sugli smartphone e naturalmente di conseguenza anche sui tablet, perché di quei sistemi operativi stiamo parlando, si possono cancellare tutti i dati. Ad esempio Android dice ripristina come il telefono era in fabbrica. Perfetto. Siamo sicuri? Allora, siamo sicuri se no, perché non esiste uno standard per la cancellazione di questi tipi di sistemi. Però siamo abbastanza ragionevolmente sicuri. Ecco. Sì. Allora, mettiamolo in un altro modo. Se poi uno di questi strumenti che ha subito il ripristina dati di fabbrica ci viene assegnato per fare il recupero dei dati, bene, posso dire che con le tecniche attuali, e Crolontra dispone delle più avanzate a livello mondiale per la possibilità di recuperare i dati, non è possibile effettuare il recupero dei dati. Quindi è una conferma lo considero una soluzione, certo, assolutamente. Quindi uno potrebbe valida. Fare anche la prova, cancella tutti i dati, li porta da voi e dice recuperatemi i dati, se voi ci riuscite uno... C'è qualche cosa che non funziona, però seguite il consiglio di Simone, fate il backup prima, perché altrimenti certo, potreste trovarvi in una situazione certo, un po' certo, problematica. Sentiamo Ennio che ci telefona da Bari, buongiorno Ennio. Sì, buongiorno. Volevo fare i complimenti per la chiarezza, veramente eccezionale. Volevo fare questa domanda. Ho acquistato un NAS che sto utilizzando, io sto digitalizzando tutti i documenti a casa mia, tutti i documenti cartacei, e sto utilizzando il NAS sia per il backup e sia per un collegamento da remoto per consultarli quando sono fuori casa. Ho acquistato anche un router con accesso VPN per la sicurezza. Posso fare il nome del router, è possibile o no? Sì, se vuole. È un ProSafe della Netgear. Ecco, volevo sapere, quando quindi attiva la DSL, io con la mia VPN posso collegarmi, sono protetto da eventuali attacchi e quindi da persone, da malintenzionati, sì, che possono poi accedere ai miei documenti, che alcuni hanno dati sensibili? Grazie. Bella domanda, grazie Ennio, perché effettivamente questa è una versione particolare di cloud, potremmo dire, cioè io ho il mio NAS a casa e quando sono in esterno voglio accedere ai miei dati di casa, cosa che si può fare. Certo, è però, cloud privato, un classico, esatto, esempio. Diciamo che la risposta è ragionevolmente, usando un termine che stiamo già usando questa giornata, sì, nel senso che, come abbiamo accennato, i NAS permettono di fare tante cose: backup, storage dei dati, quindi salvaguardia dei dati digitali, e una delle cose per cui vengono più utilizzati è l'accesso da remoto, cioè accedo ai miei dati da remoto. Ecco, se mi chiedessero un consiglio su che tecnologia utilizzare per accedere da remoto in modo sicuro ai miei dati, io consiglierei certamente una VPN. È molto sopra la media di quello che utilizzano l'utente normale, quindi con una VPN, se ben configurata, l'accesso è sicuro ed è riservato a chi dispone delle credenziali di accesso tramite VPN, perché la VPN usa dei sistemi di cifratura e di autenticazione ragionevolmente sicuri. Certo, un ulteriore modo per proteggere i dati, tu l'hai citato, è cifrare i dati, cioè uno può fare il backup cifrando anche i dati, però qua andiamo un po' sul difficile. Sì, uno potrebbe creare già il file in sé può essere aperto solo con delle chiavi di sicurezza, e per di più diciamo che la VPN si occupa di garantire la sicurezza della connessione, sì, non del, sì, dato, sì. Però sicuramente è un ottimo sistema. Sì, sì. Torno su un punto importante, fondamentale. Allora, Romano ci dice: ma i dati sul cloud quanto sono sicuri? Aziende come Apple e Google possono frugare dentro il mio account cloud? Allora, intanto nessuna di queste aziende fruga e va a vedere quello che c'è. Vengono fatte delle analisi in modo anonimo e, ad esempio, faccio il classico esempio della posta elettronica di Google, che è gratuita. In cambio Google dice: beh, posso andare a vedere in modo anonimo le parole chiave. Ad esempio, in questi giorni sto occupandomi per la mia casa di finestre e ieri vedevo che sopra la posta di Google c'era un'offerta di un'azienda polacca che vende finestre. Quindi quello è un esempio di come Google vada a vedere. Però questo è un problema di privacy e ne parliamo in un'altra puntata. Oggi stiamo parlando di sicurezza dei dati, di robustezza del dato. Cioè se quel dato viene protetto oppure va perso, viene cancellato. Purtroppo in un'ora non riusciamo a dire tutto, perché sennò... Ma è un tema di cui ci siamo occupati varie volte e di sicuro ci torneremo. Dunque, recupero dei dati. Quanto costa? Se mi si allaga la casa, mi si incendia la casa, anche l'ufficio o la fabbrica, voi siete capaci di, come ci dicevo all'inizio della trasmissione, recuperare i dati che io ho nei miei hard disk, sui miei tablet, eccetera, eccetera. Ma queste cose sono alla portata di tutti oppure sono molto costose? Beh, allora diciamo che l'esempio dell'incendio e dell'allagamento non sono i casi più ricorrenti. Il nostro caso più ricorrente è il guasto hardware o la problematica di qualche errore causato da qualche utente su dei sistemi magari complessi. Dal punto di vista dei costi, il nostro approccio è estremamente chiaro ed estremamente tecnico, nel senso che noi andiamo a avere una sorta di listino per quelle che sono le attività tecniche che dobbiamo fare, non quindi per il dato. È chiaro che dipende molto da quello che è il valore del dato per il proprietario stesso. Mi spiego meglio. Se io a casa mia, sul mio laptop, in cui forse ho la ricetta della torta di mele e un paio di video e di film, dovesse cadermi e quindi non funzionare più, probabilmente non andrei ad affrontare un recupero dei dati da questo tipo di sistema. Sì. Per dare un ordine di grandezza del costo, su sistemi che possono essere dei laptop, parliamo di prezzi a partire dai 600 euro. Per effettuare il recupero dei dati. A proposito di cancellazione sicura dei dati, invece, c'è chi ci domanda, però questo penso che non sia, non rientra nelle vostre competenze, visto che abbiamo detto prima che buona parte dei dati, soprattutto quando utilizziamo smartphone o tablet, poi vanno a finire nel cloud, come si fa a cancellare il dato che è nel cloud? Beh, il cloud allora è un qualche cosa di virtuale, però poi alla fine è anche un qualche cosa sì, di fisico. Però dobbiamo interagire con chi ci offre il servizio. Diciamo che in questo caso è chi direttamente eroga il servizio che si occupa poi di questa attività di cancellazione dei dati. Questo però dipende molto da dove i dati sono memorizzati, in quale nazione, secondo quale policy. Mm-hmm. Quindi lì il suggerimento è quello di andare a leggere il contratto sì. che si è Simone, per l'utente finale che usa Android o iCloud... Sì. Possiamo dire qualcosa su come cancellare definitivamente i dati? Basta cancellare il nostro account, diciamo. Intendi dal cloud o dal terminale? Cloud, dal terminale, cloud. Come dicevamo, c'è la procedura di ripristino. Dal cloud tipicamente basta cancellare, cioè disdire l'account. Ricordiamo che, come dicevi tu, tutti questi servizi partono dal presupposto che cifrano i dati sia durante il trasferimento che durante nelle aree in cui sono immagazzinati. Sono successe in passato dei piccoli inconvenienti. Dropbox 2 anni fa ha avuto un problema di sicurezza, però anche qua è privacy, no? Sì, quindi non ne parliamo oggi. Infatti. Comunque diciamo che tipicamente quando noi disdiciamo l'account i dati vengono ragionalmente rimossi. Prima della viabilità, una risposta. Prima abbiamo parlato di quanto è sicuro collegarsi con un NAS. Se uno ha un NAS Wi-Fi, visto che il Wi-Fi va molto di moda, io appena posso lo spengo e uso il cavo, però collegarsi al Wi-Fi, al NAS Wi-Fi è sicuro? O il nostro vicino? La risposta è il NAS. No, la risposta è semplicemente il NAS è un oggetto, è sicuro per quanto è sicura la mia connessione Wi-Fi, quindi se io proteggo bene l'accesso Wi-Fi, anche accedere al NAS tramite Wi-Fi è sicuro, ecco, non è colpa del NAS, l'importante è che io costituisca un sistema Wi-Fi ben protetto. Si può fare anche una VPN over Wi-Fi, come si dice. In casa. Sì. Bene, ci fermiamo per un minuto. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Allora, volevo chiedere a Simone Zanardi se ci dà qualche consiglio su software da utilizzare per fare il backup. So che, e forse questa è una novità degli ultimi mesi, non so se degli ultimi anni, ma direi degli ultimi mesi, che ci sono anche alcuni software che si occupano della sicurezza, tipicamente gli antivirus, che non andrebbero più chiamati antivirus perché fanno un sacco di altre cose, che fanno anche il backup, giusto? Sì, diciamo tutte le ditte di, come dicevi tu, antivirus, Norton, Symantec, nomi famosi, hanno ormai, oltre che l'antivirus di base, vendono, commercializzano dei pacchetti di sicurezza che includono antivirus, firewall antispam per la posta elettronica e anche l'elemento di backup. Quindi, per esempio, queste soluzioni pacchettizzate che includono tutto, includono anche il backup. A proposito di backup, ci tenevo a dire una cosa che forse prima abbiamo trascurato. Quando si fa un backup di un computer, alcune persone si scordano di cosa, di quali sono i dati da backuppare. Allora, cosa succede? Una persona dice: io sono abbastanza sicuro che tutti i miei dati di cui ho necessità di fare backup sono nella cartella documenti o nelle sottocartelle documenti, quindi imposto il backup da documenti e sono a posto. Classiche cose che si dimenticano a seconda di quanto si è esperti o meno: l'archivio di posta elettronica, per esempio di Outlook, che non risiede nella carta documenti, c'è una cartella posta di Microsoft dove sono immaginati questi file che si chiamano PST, grandi file. Che io consiglierei di non usarla più la posta scaricata in locale, usate solo servizi webmail. Sarebbe molto a discutere anche il discorso POP3, IMAP, diciamo che però c'è tanta gente ancora che usa il servizio POP3. Quindi mi vuoi dire che dobbiamo fare una puntata su questo? No, però bisogna stare attenti. Un'altra cosa che molte persone si trovano poi a rimpiangere è non aver fatto una copia di sicurezza dei preferiti, dei bookmark del browser, quindi dei siti dove vado, no? Sono directory sempre più lunghe. Tutti i software oggi, da Chrome, Firefox, hanno dei sistemi per sincronizzare anche i preferiti sul cloud, ma ci sono comunque delle procedure per salvare delle copie di sicurezza di questi elenchi. E da ultimo, ci tengo a dire, ci sono dei software apposta, Norton Ghost e Drive Image sono i più noti, che fanno una copia non dei file, ma fanno un'immagine di tutto l'hard disk del computer e lo salvano. per un eventuale ripristino in toto del computer, quindi ripristinando le una specie di snapshot di istantanea di tutto il sistema, che poi può essere ripristinato in caso di malfunzionamento anche a livello di driver. Sì, Salin, allora adesso ci facciamo un po' di paura. Dal 2014 arriverà una nuova figura nelle aziende, che forse non dovrà necessariamente essere una nuova persona, ma magari una persona che si accolla anche questo nuovo ruolo, che è il privacy officer. Ci spieghi un po'? Questa è una figura assolutamente di recente istituzione e sarà la persona responsabile proprio di tutti gli aspetti legati alla privacy del dato, quindi di come il dato viene creato, di come il dato viene memorizzato e protetto durante la sua fase di vita e poi anche di, chiaramente, di come il dato dovrà essere smaltito e distrutto. Quindi diciamo che dovrebbe essere una persona che avrà sotto controllo tutti gli aspetti sia operativi, quindi di sicurezza, ma poi anche di privacy, quindi sì, legati al ciclo di vita, sì, del dato. Le due puntate messe assieme in un'unica persona, perché prima appunto ho detto che bisogna dedicare un'altra puntata alla privacy. Senta, a proposito di questi obblighi che lei ci ha ricordato esserci, perché il garante per la privacy, che si occupa in questo caso anche di sicurezza dei dati collegata alla privacy, obbliga alla cancellazione, ma ci sono delle sanzioni? Che mi preoccupa, però un conto sono le aziende, ma se un cittadino, cioè se io vado alla discarica a buttare via un computer, non succederà mai, però qualcuno potrebbe dirmi: ma lei non ha cancellato in modo sicuro i dati? Allora sì, allora ci sono due esempi, due ambiti. È chiaro che il dispositivo è il suo, quindi proprio il computer, lo smartphone è suo e ci può fare quello che vuole, ma i dati che sono memorizzati in questo strumento non sono necessariamente i suoi. Facciamo un esempio molto, molto semplice. Io le mando un SMS in cui dico: alle prossime elezioni voterò X o Y. Questo è un SMS che io ho mandato a lei, un SMS, un'email, un file, una cosa del genere. Io l'ho mandato a lei e quando lei però va a dismettere, va a buttare via o va a regalare il suo dispositivo, caspita, c'era un dato sensibile mio lì dentro. E se qualcuno, nella fattispecie io, me ne accorgo, certo, di questa cosa, potrei andarmi a rivalere. Certo, certo. Però rispondendo alla sua domanda, ci sono delle sanzioni. Diciamo che per quanto riguarda il privato cittadino, sì, teoricamente ci sono delle sanzioni, perché è una figura riconosciuta dal garante per l'obbligo della cancellazione sicura dei dati sensibili, però è abbastanza poco probabile che ci possa essere un riscontro, una verifica. Per quanto riguarda invece le aziende, le sanzioni ci sono molto importanti e quindi forse bisogna anche dare un consiglio su come poter fare la cancellazione sicura e anche sottolineare un aspetto. La cancellazione sicura è molto poco costosa. Se andiamo, cioè, la si può fare anche con dei software, non è che devo portare le macchine da no, voi. No, assolutamente, la si può fare anche con dei software e ci sono anche dei software freeware, quindi gratuiti, che consentono di fare questo tipo di attività. Sostanzialmente mi sento di dare tre suggerimenti in base a quelle che sono le categorie degli utenti. Se io sono un utente privato e devo andare a gestire degli smartphone o dei tablet, siccome non ci sono degli standard ancora definiti, direi di usare gli strumenti nativi già presenti sul supporto. Come abbiamo detto prima. Come abbiamo detto prima, tutte quelle procedure per, perfetto, ripristinare lo stato di fabbrica. Secondo consiglio. Se sono un utilizzatore privato, quindi sono sempre il cittadino di prima, però ho a che fare con un desktop, con un laptop, quindi col mio computer di casa, in questo caso mi sento di suggerire di utilizzare un software freeware. Ce ne sono n.000 a disposizione, basta fare una ricerca. Certo, magari cercate quelli che vi offrono qualche garanzia in più in termini di effettiva cancellazione dei dati, però lo ritengo essere una misura assolutamente... Ultimo consiglio? Ultimo consiglio. Sono un'azienda, sono un professionista. Beh, in questo caso forse è meglio utilizzare un software o delle soluzioni certificate, perché questo che cosa consente? Che vantaggio dà? Dal vantaggio di offrire un'evidenza che si è svolta l'attività, quindi di metterci al riparo, nel caso di un eventuale controllo, di aver eseguito il tutto. Di contestazione di terzi. Anche perché, come dicevo prima, effettuare una cancellazione sicura ha il costo di qualche euro, ma stiamo veramente parlando di qualche euro per ogni supporto. Stefano da Palermo, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Una domanda per la sicurezza dei dati sul NAS. Quando si guasta il NAS, non il disco fisso, come faccio a leggere i dati dal disco fisso, considerando che se lo collego ad un computer il disco non lo posso leggere. Bella domanda, grazie Stefano, buon ascolto. Simone. Ottima domanda. Allora, i NAS nella stragrande maggioranza dei casi utilizzano dei sistemi operativi proprietari basati su Linux o derivati e utilizzano dei file system basati i file system tipici di Linux. Come recuperare se si rompe il NAS? Ci sono tanti sistemi, per esempio rivolgersi al Colon Track, per esempio, in caso catastrofico. Però alcuni esempi sono, prima di tutto, anche il NAS può essere backuppato, quindi fare una copia di sicurezza anche di dati sul NAS. In secondo luogo, per esempio sul cloud, come dicevamo prima, alcuni NAS lo fanno in automatico. In secondo luogo, utilizzare un sistema, qua però appunto non è che tutti lo possono fare in casa e sono capaci, che riesca a interpretare il file system utilizzato dal NAS, che non sempre è quello Windows. Quindi comunque se si rompe il NAS è un problema, però si possono togliere i dischi e metterli in un altro NAS. In un altro NAS che supporti il stesso sistema operativo e che abbia il suo sistema operativo, cioè il NAS, riesca a leggere i dischi se non anche lui ha bisogno di mettere il sistema operativo sui dischi, e sempre che il NAS precedente non abbia criptato, cifrato le informazioni con una password. Certo. A quel punto non c'è niente da fare se non rivolgersi a loro, perché molti NAS per questioni di sicurezza criptano i dati. Non abbiamo più tempo, Salini, se vuole 12 secondi se vuole aggiungere. L'aspetto della cifratura, quindi della crittografia, è assolutamente importante, perché noi non lo sappiamo, ma molto spesso sui nostri device, quindi dallo smartphone al nostro computer, i dati sono crittografati in modo automatico e nativo dal sistema. E questo può procurare un problema nel momento in cui qualcosa va storto e quindi questi debbano essere in qualche modo recuperati. Bene, io ringrazio i nostri ospiti, Paolo Salin di Colon Track, a presto e buon lavoro. Grazie. E anche grazie a Simone Zanardi, a presto, ciao Simone. Ciao Enrico, alla prossima. Noi ci risentiamo la prossima settimana. 2024.